È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, caro Parenzo, in diretta come sempre su Radio 24 e anche su TGCom 24 per la Zanzara di questa sera. Dove ti trovi? Come al solito, nulla facente? Molto bene, non mi trovo a Roma, mi trovo a Roma. Ma perché parli piano? Perché parli piano? No, ma niente, un po' di... Perché parli piano? Mi trovo a Roma. Ah, ecco, parla forte, alza la voce, alza la voce. A Roma. È tornato Brunetta alle prese con Parenzo questa mattina, sentiamo. Sta dicendo che oggi Alfano andrà, anzi domani Alfano andrà a dire... Andrà a dire, ma no, do una notizia, andrà a parlare di banche. Beh, non è una notizia, l'ha detto Orvieto. Andrà a parlare di banche. Sì, ma e andrà di Andrà a parlare di una cosa. Ma e anche di matrimoni Zanzara, mamma mia, no, che fastidioso. Anche di matrimoni gay. È fastidioso per contratto. La Zanzara è fastidiosa. E purtroppo andrà a parlare del fatto. Ancora. Per esempio la 7 non è inutile, sì, per esempio. No, non dica così. Ma è vero, la 7 è in passivo. Però, grave Gianno, la RAI chiude. Però noi non siamo il servizio pubblico. La 7 mi piace, una bella televisione, ma noi non siamo pagati dal canone. La pago però. Esatto. Anche la 7. Vabbè, a un certo punto però giustamente dice basta con questi riti, Fornero, i sindacati, mamma mia questi riti interminabili che ci sono nella politica italiana, le polemiche su una singola frase, su una parola come paccata. Sentiamo. E sappiamo che a minuti, insomma, dovrebbero riunirsi di nuovo la Fornero con i sindacati per questa trattativa. Posso solo dire mamma mia sti riti, mamma mia sti riti. Si può fare per email, nell'Europa però, degli spread, nell'Europa delle crisi, nell'Europa dove cambia il mondo, ma non si può sono fare con tre l'iPad. Mesi di ritualità alle 8 di mattina. Ma non lavorano, scusi, no, vanno alle 8 del mattino. Allora, Parenzo. La CGIL è un partito, viva Elsa Fornero, qui addirittura dà un 9 più come voto, la CGIL è partito, sentiamo. La CGIL è un partito, non è un sindacato, quindi è un'altra cosa, ma a parte questo, come dire, è bene cominciare a dire le cose come stanno. Viva Elsa Fornero, speriamo che dalla montagna non partorisca il topolino, lo temo, e soprattutto speriamo che il topolino non sia un topolino costosissimo. A proposito di Fornero, sentite cosa ne pensa l'Italia dei Valori, un partito che, come sapete, che parte, lancia in resta contro il governo, in particolare contro Monti e la Fornero, e però poi vorrebbe fare un'alleanza col Partito Democratico che adesso sostiene Monti. Piuttosto curioso. Donadi, capogruppo alla Camera, Fornero ha la stessa grazia di Bossi. Il tavolo sull'articolo 18 è un tavolo che diventa sempre più ideologico e contro gli interessi del mondo del lavoro italiano. E il ministro Fornero è il principale contributo del governo al rischio di fallimento di questo tavolo, con i suoi diktat e le sue paccate di miliardi. Sembra avere la stessa grazia del Bossi dei tempi migliori. Poi sentite un incredibile gaffe questa mattina, credo, in qualche trasmissione, non ricordo quale, potrebbe essere anche Omnibus, no, forse no. Di un leghista milanese che si chiama Iezzi, il quale per ben due volte Igor Iezzi chiama Quagliariello, anzi ieri sera Lina Notte, per ben due volte invece di parlare con di chiamare Quagliariello, il vice capogruppo dei senatori del PDL, lo chiama Quagliarella come il giocatore, come il giocatore della Juventus. Senti. Non ho capito bene se Quagliarella è in maggioranza o in opposizione, perché dal discorso che faceva il debito pubblico non è stato intaccato, la crisi c'è ancora, il decreto, le liberalizzazioni, le semplificazioni. E poi ancora, ripete, finché a un certo punto glielo fanno notare, guarda che non è Quagliarella il giocatore della Juventus, è Quagliariello. la vera domanda che noi ci dovremmo porre è quanti posti di lavoro sono stati creati grazie a provvedimenti varati da questo governo, e secondo me la risposta è zero. Zero, però anche rispetto a provvedimenti varati da quell'altro che avete partecipato voi, anche lì non è che ne sono stati creati. Non lo so, lascio la risposta a Quagliarella. Perché ma perché non si chiama Quagliarella? Quello allora, è il calciatore allora, se non sbaglio. Voglio dire, esatto. Quagliarella non sta in maggioranza dell'opposizione, ma gioca nella Juve. Quagliariello è uno che si rende conto della situazione. E siamo qui 800 24 00 24. Abbiamo già un ospite, c'è un qualcosa di mitico oggi, però dovete aspettare per questo, per il top di oggi. Il top di oggi alle 19:15, il top degli audio, no? Il top, quello è il top di oggi, il top di oggi, per cui state incollati qui perché oggi avrete il top, cioè le frasi più straordinarie che avete sentito sugli omosessuali, addirittura su Mussolini, un personaggio scatenato. Intanto voglio farvi sentire la questione Ingroia, riassunta nella frase di Ingroia su Forza Italia, che è quella che ha provocato più polemiche. Forza Italia nell'interesse di Cosa Nostra. Anche la, diciamo, avventura politica del senatore Dell'Utri era nell'interesse di Cosa Nostra. L'idea della Costituzione di Forza Italia è un'idea del senatore Dell'Utri nell'interesse di Cosa Nostra. Questo è quello che abbiamo detto nella requisitoria, che è stato confermato alla sentenza di primo grado. I giudici d'appello nella sentenza però ora cassata. E siamo qui con Renato Farina, caro Parenzo, tu lo chiami sempre Betulla, come lo chiami ogni volta che è il nostro, che è qui come interlocutore? No, Betulla. Voi pensate che in un comunicato Italia dei Valori ha strafatto, invece di chiamarmi Betulla mi ha chiamato Libellula, per cui va bene, sembra anche più carino. È meglio Betulla di Libellula. Ma non ci credo, l'Italia dei Valori in un comunicato ha scritto Libellula. Per criticarmi non so che cosa la gente Libellula, cosa che mi ha molto fatto piacere, perché forse ironia rispetto al mio peso, ma comunque Allora Parenzo, non so se hai notato il titolo del giornale di oggi, che ha qualcosa di comico. Beh, secondo me i titoli del giornale sono una delle prime cose che io in genere, quando sono depresso come oggi, faccio. Compro il giornale oppure anche le volte Libero. No, ma Libero che c'entra adesso, come al solito? Vabbè, il titolo, ricordalo agli ascoltatori. È stata la culona. Sì, quello è stato il top. Quello è stato il top. Sì, quello è uno dei top. È stata la culona il 31 dicembre, mi ricordo. È stata la culona. Rivolta alla Merkel. Rivolta alla Merkel, perché la Merkel in quel momento veniva considerata quella che tramava, che tramava contro il governo, che aveva tramato contro il governo Berlusconi. Ma il titolo di oggi, insomma, è supera quello. Hanno vinto i gay. Come i gay? Ma cosa hanno vinto poi? La lotteria, il concorso. Hanno vinto i frocchi. Poi è detto in senso negativo, cioè hanno vinto i gay, è come dire hanno vinto, che ne so, come l'armata rossa che entra dentro non so che cosa, cioè hanno vinto loro, hanno vinto i cattivi. Farina, ma che è sta cosa che hanno vinto i gay? Lei non c'entra niente col giornale, perché non sono mica l'esegeta di Sallusti. No, lo so, ma anche secondo lei al Parlamento europeo ieri hanno vinto i gay? No, ha vinto, secondo me, tra l'altro si è esagerata l'importanza di appunto questa, di quella, sempre quella Parlamento frase europeo, dove cioè ci si limita a rammaricarsi di qualche cosa, cioè nessun rammarico ha mai prodotto delle conseguenze universali. Ma poi diciamo la verità, il Parlamento europeo non conta un cazzo, diciamola tutta. No, conta nel senso che insomma influenza poi le decisioni dei giornali, i titoli dei giornali. Ah, ecco, appunto, nel concreto. No, molto sulle misure dei cetrioli, su queste cose qua. Sulle cose più gravi, devo dire che tra l'altro l'Europa non ha neanche il potere di far cambiare le costituzioni, le legislazioni sulle questioni di rilevanza etica sociale appunto dei singoli paesi. Senta Farina, però Alfano l'altro giorno secondo me ha detto una grande boiata, se lo posso dire in maniera soft, tanto per essere oggettivo e soft, cioè non c'entrava nulla, solo per trovare questo quid eccetera, ha detto beh, la sinistra sappiamo già cosa vuole, i suoi valori li conosciamo, per esempio Zapatero, prenderà l'esempio da Zapatero e vuole introdurre in Italia i matrimoni tra gli uomini, non capisco tanto perché vengono citati solo gli uomini, ma comunque, insomma, i matrimoni tra gli uomini e le coppie di fatto. Adesso non mi dica che anche lei ha lo spauracchio della sinistra che vuole introdurre i matrimoni tra gli uomini, Farina, perché non ci credo. No, matrimonio tra gli uomini no. Diciamo che la sinistra più che non gli alleanze di centrodestra accetta una certa deriva per cui il matrimonio diventa una cosa tra le tante possibili costituzioni di insieme di persone, cioè dove la famiglia diventa una specie di multiculturalismo pratico, ecco. Cioè, dove non c'è un privilegio che secondo la Costituzione, ma anche secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, peraltro, la famiglia è fondata sul matrimonio, no? Tra uomo e donna, tra uomo e donna, dice lei. L'articolo della Costituzione. Sì. Cioè, lei vuole dire che se ci fosse in Italia, se si introducesse il matrimonio tra uomo e uomo, tra donna e donna, si violerebbero i diritti umani? Guardi, usare delle parole così gigantesche sempre non mi piace. Diciamo che io non ritengo un diritto fondamentale, come pretendono tanti, rendere i rapporti omosessuali sanciti da una legge, da un regolamento di valore pubblico. Non è un diritto fondamentale. Anche non è un diritto fondamentale. No, approfondiamo questo tra un attimo. La facoltà individuale di fare ciò che uno crede. Sì, in camera da letto, ovunque, eccetera. Ma la parola camera da letto non mi è mai piaciuta perché è limitativa delle espressività umane. Vabbè, anche se in pubblico, lei se vede due che si baciano, che effetto le fa, Farina, scusi? Ma questi sono problemi miei, diciamo. No, che effetto le fa? Guardi, io anche quando si baciano un uomo e una donna penso che siano cose che devono essere velate dal pudore. Che devo dire? Sono fatto così, no? È il mio diritto individuale. E se vedesse due... Almeno i sentimenti sono liberi di trovare quelli che vogliono. Assolutamente, no? Sì. Ma se vede due uomini... Una legge, deve avere i sentimenti ma figuriamoci. Che vuole, ma... Ma se vede due uomini che si baciano, che effetto le fa? Si volta dall'altra parte, va a rimproverarli, se ne va? Ma no? Figuriamoci, rimproverarlo non ci penso neanche, non mi giro dall'altra parte, penso, avranno chissà quanti problemi avranno, ci sono già dei problemi tra uomini e donne, figuriamoci tra uomo e uomo. Ma no, traffico, vabbè comunque la pensa così, che devo fare? Traffico. Bene, siamo qui da Zanzara, 800 24 00 24. Vi do una piccola anticipazione, però ve la devo dare perché mi prudono le mani. Sai che sono molto contento questa sera di avere il nostro ospite Renato Farina, alias Betulla. So che non gli dispiace che giochiamo un po' su questo Betulla. È bella questa cosa di Libellula. Sono molto contento perché lo vorrei abbracciare fortissimo, perché se lo avessi in studio. Non esageriamo adesso. Beh, perché no? Lo vorrei abbracciare fortissimo. Io anche voglio molto bene E sono contento perché ci sono un sacco di cose di cui parlare. C'è la questione dei Marò, perché insomma lui ha una certa esperienza con la questione degli ostaggi, anche se poi non sono classificabili come ostaggi naturalmente, ma c'è anche la questione Ingroia e tante altre cose di cui parlare. Sono curioso di sapere che ne pensa del divorzio breve, argomento non di strettissima attualità però interessante. Sono sicuro che uno di quelli che si oppone al divorzio breve, che resiste anche lì, resiste per tenere il divorzio così com'è adesso, giusto Farina? Tu hai un grosso intuito, diciamo. Vabbè, io lo chiamo divorzissimo. Prendere il programma di uno Stato teocratico. Ma che c'entra lo Stato teocratico, mamma mia? Abbiamo fatto tutto. Io penso che il divorzio breve toglie ancora più peso a un patto che c'è tra le persone. Cioè, voglio dire, se si fa diventare il matrimonio un fatto che se poi ti girano le balle te ne vai. Ma tanto è così anche adesso, Farina. Un altro non si premia questo atteggiamento, no? Cioè, poi dopo, lo Stato... voglio dire, io non a me sembra che... Cioè, a cosa serve mantenere una deriva cattiva? Ecco, una deriva cattiva, cioè se uno il divorzio se lo fanno, la legge l'accetto, non è che io non l'accetto. No, però vota contro. Vota contro. Dunque, se lei vota contro il fatto che uno si possa divorziare in un anno, perché se uno si divorzia in un anno o in tre, che cambia secondo lei? Che cosa servono tre anni? Allora facciamo un mese, no? Perché io sono d'accordo anche con un mese, per carità. Va bene, allora facciamo un mese. Il divorzio lampo come in Spagna. Io penso che sia una cosa che arriva alla fine a banalizzare il matrimonio, quindi tutto ciò che banalizza e che rende la decisione già facilmente contraddicibile in poco tempo mi sembra... Però mi scusi Farina, in realtà non è così, perché anzi si dà la possibilità a uno di risposarsi, dunque in realtà esalta il matrimonio, è esattamente il contrario secondo me. Sì, vabbè, come quelli che dicono che siccome ama tanto la famiglia ne ha due o tre, no? Cioè, sono, beh, questo è un tema diffuso. No, cioè, che c'è, voglio dire, io ho parlato di sposarsi. Ma loro che se ne è sposati 7-8. E vabbè, appunto, la grande esaltazione del matrimonio. Ma sì, io quella forma di società dove il consumismo arriva anche al consumismo dei sentimenti non mi piace. Però scusi, secondo lei essere sposati 2-3 volte è un male? Cioè una cosa che distrugge la società o comunque un vizio della società essere sposati 2-3 volte? Chiedetelo ai figli, non lo so, cioè io penso che non sia una cosa bella, poi dopo io non è che mi metto di traverso, dico soltanto che se finché sono un deputato e devo votare una cosa che secondo me, ecco posso dirlo, sì, secondo me introduce un elemento disgregativo e oggi abbiamo bisogno di tutto meno che di nuovi elementi disgregativi. Ma tanto la disgregazione, volendo, se uno la vuole chiamare disgregazione, c'è lo stesso. Secondo me adesso le ho dato del lettere che faccio il professore. No, vabbè, da Aristotele in poi, prenda nota Parenzo, che poi mi critica, fantastico. Tutte le leggi hanno anche un valore pedagogico. Sì. Questo è in tutti. Allora, è chiaro che se tu dici facciamo il divorzio in 448, ha un valore pedagogico, vuol dire che è una cosa che se può fare. No? E diventa da facoltà desiderio. Questo è una pratica comune, è una roba da stato etico. Questo, per cui io preferisco, visto che è stato introdotto il divorzio, no? È un perché è un male secondo lei, lo cancellerebbe il divorzio? Io dica la verità. Guardi, adesso io non sono uno che vuole dire delle cose che poi finisce sui giornali perché sono delle stupidaggini. Beh, se lo pensa. Io credo che sia un processo irreversibile quello per cui nelle società si sia arrivati al divorzio. Però non le piace a lei, non le piace. Che sia una bella cosa. No, non le piace. È una cosa, voglio dire, sarebbe ridicolo anche proporre di vietare il divorzio. No, appunto. Non neanche lo penso come... No, appunto. Però... sarebbe anzi sentito come proprio una cosa che rende ridicolo. Allora, però aspetta un attimo. Una società è dove tutti vivono felici e contenti. Se questi stanno una volta sono felici con tanti bambini. Ecco, questo è il mio modello. Poi dopo tutte le leggi che aiutano questo mi fanno contento. Cioè il suo modello di società è una famiglia con tanti bambini, punto, ma non si cambia. Cioè, questo è, voglio dire, la mia speranza, che tutti noi speriamo di una donna, no? Sì. Cioè, cosa pensiamo? Speriamo che duri un anno, oppure mettiamo avanti le mani che si può finire. No, ma secondo me quando si innamora pensa, è per sempre, io voglio i figli da questa donna. Ma voi state... Un attimo, una canzone, voglio sentire 10 secondi, una canzone. Non me la mandano, vabbè, se ci sentiamo dopo, non me la mandano. 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24. Eccoci alle 19:18. Parenzo, sei pronto? Eccoci, pronto. Cerco di caricarmi a pallettoni, eh? Che c'entra? Vuoi essere sempre caricato a pallettoni? Sì, ma sono un po' giù oggi, bisogna lottare. Ma che hai? Sei un po' giù? Ti sentivo carichissimo, adesso fammi sei un po' giù. Un po' di battaglia con Sor Farina. Sì, adesso te la faccio fare un po' di battaglia, un secondo. Prima Boccia versus Brunetta. Mandiamo un Boccia versus Brunetta. Anzi, no, avevo promesso una cosa. Mandatemi Lino di responsabilità nazionale, su. No. Mitico Lino, sì. No, abbiamo delle perle pazzesche da farvi ascoltare. Un solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mi. Bandiera al vento! Padri e figli, perché ancora vera. Beh, questo è il top, questo è il top, come vi avevo annunciato, il top di oggi. Beh, alcune frasi dalla web TV del PDL che si chiama Movimentando, del nostro mito assoluto Mimmo Scilipoti, che dobbiamo dire non ci regalava qualcosa da un po' di tempo, dunque ci mancava anche un po'. Sì, è esploso tutto insieme. D'altra parte è così, cioè quelli che sono al top stanno per un periodo magari silenti, acquattati, no? Così dicono, non dicono qualche stronzatina, così, però poi alla fine poi esplodono all'improvviso. La follia totale. Senti questa cosa qui. Beh, non è inutile che te l'annuncio. Sentila e basta, sentitela e basta. Non ti preoccupare. Sentitela e basta. Perché ce l'hai tanto con gli omosessuali? Ma io non ce l'ho con gli omosessuali, io non ce l'ho con nessuno. Dico che il rapporto anale sicuramente è contro natura. Perché? Dico, cioè, un rapporto anale, guarda, secondo me è contro natura. Due uomini che stanno assieme hanno dei rapporti anali, sicuramente a mio giudizio è un rapporto non normale, è un rapporto senza voler offendere nessuno. Bello che dice senza voler offendere nessuno, però. Dai, io credo che sia tecnicamente tanto, dai. L'avete sentito tutti, cari ascoltatori della Zanzara 19:20, tappate le orecchie ai vostri bambini, cercate di non fare ascoltare, voi che siete, come dice sempre Parenzo, in cucina, magari a cucinare, con un po' di pargoli intorno, abbassate la radio momentaneamente. No, tappate, no, abbassate la radio, mai. No, abbassate la radio, mai. Sempre la frequenza sulla Zanzara, ma abbassatela un attimo. No, abbassate, mandate i bambini un attimo di là, i bambini un attimo, bambini, uscite un attimo, voi che siete in cucina, e siete tantissimi che state lì a cucinare, a chiacchierare, intanto ascoltate la Zanzara. E allora questo signore va censurato, e dunque i bambini non possono ascoltare. Il rapporto anale contro natura, tutti sanno a cosa serve, sentite. Tutti sappiamo, dico, non è che non c'è la necessità di essere medici o specialisti, dico, come me in ginecologia e in ostetrice, dico, ma tutti sappiamo a che cosa serve l'ano, appunto. Ma scusami, ti faccio una domanda scabrosa, quindi tu lo consideri contro natura anche tra un uomo e una donna? No, non ho detto questo. A cosa serve, scusa Parenzo, a cosa serve? Dai, ma io credo, guarda, mi verrebbe da dire tante cose. Vomiti anche lei, Farina, vomiti anche lei. Si può dire che è un cretino proprio. Farina, vomiti anche lei. Guarda, mi faccio una seconda domanda. No, vabbè, ma questo è un suo alleato. È un suo alleato, signor Scilipoti. No, lui non è più un alleato perché vota contro il governo Monti. Questo è vero. È vero. Ma anche secondo... È vero, è alleato di Parenzo, è vero. No, assolutamente. Come, sei andato a fare la presentazione del Bunga Bunga con Di Pietro? Ora adesso rinneghi. No, è roba vecchia, certo, quella è roba vecchia. È contro... È come Parenzo, in fondo. Ma anche secondo lei, sincere. Anche secondo lei il rapporto anale non forse brillanti, ma sincere. Ecco, ma anche secondo lei il rapporto anale contro natura, signor Farina? Scusi se la faccio questa domanda. Io non rispondo a queste domande. Beh, l'ha detto Scilipoti, io non è che non gliel'avrei fatta. Vabbè, No comment. Ma come no comment? Fate questa domanda alla Bindi. Ma lei è d'accordo con quello che ha detto la Bindi, mi sembra, no? Non mi ricordo. Di recente ha detto che il matrimonio è quello là tra uomo e una donna, la Costituzione. È una vecchia storia, no? Anche lei è una vecchia. No, è una vecchia storia il matrimonio. Ah, il matrimonio. No, non ci mancherebbe altro. Dunque, brava la Bindi a puntualizzare quella cosa lì, no? Sul matrimonio. O no? Dice una cosa. Banale, dice. No, di perfetto buon senso, in continuità con. Con la sua storia. Storia dell'umanità, direi. Addirittura. Così, è difficile trovare una storia dell'umanità che sarebbe proceduta senza la famiglia, non crede? No, però questo, lei adesso, questo Farina, non c'è dubbio. Tu lo dici con. Ma c'è ancora una cosa, c'è ancora però un qualcosa. Ma la sostanza di Farina non è lontana dall'immagine di Scilipoti. Non me lo vuole dire, se è d'accordo o no. Non me lo vuole dire. Non sono un uomo che si concentra sugli anni come voi. No. ma poi insiste Scilipoti, anale è una cosa pazzesca, bambini uscite dalle case, uscite dalle stanze, uscite dalle cucine dove le vostre mamme vi hanno portato, tappate le orecchie se sono in macchina, è Scilipoti, non ci posso fare niente, lo devo mandare per forza. Due uomini come fanno la mazza allora? Ma si possono amare anche senza in modo platonico, secondo senza te. Avere rapporti anali, perché dovrebbero avere rapporti anali? Cioè, devono avere rapporti anali, due si amano, scusa, sessuale, ma che si chiama? Due si amano e si vogliono bene perché hanno il rapporto anale, non l'ho capito. Voler bene è qualcosa invece, è un modo di vivere il sesso di diverso, cioè dire voler bene e rispettare gli altri, quello non è rispettare gli altri. Due uomini che stanno assieme e hanno rapporti anali è un atto animalesco, e allora quello non è il volersi bene, non è il rispettare chi ti sta accanto, ma è volerlo sottomettere. Poi non si capisce perché questo ragionamento vale per gli uomini e non per tra un uomo e una donna, se si parla di sottomissione. Però Farina, qualche cosa non può trincerarsi dietro uno comment di fronte. Guardi, a queste cose. Parlamentare, che mi ha molto colpito il professor Romano Amerio, e chi è? è stato un grande professore, lei ha scritto Jota Unumung, era un grande filosofo, è uno degli 11 professori che non ha firmato la cosa di Mussolini, ed è poi emigrato a Lugano. C'è pure Mussolini in mezzo alla storia di Cilipoli, allora, adesso tra poco. Mi raccontò, aveva oramai 100 anni, mi disse una cosa che non sapevo e forse non sapete neanche voi. No, sicuro. Anello, sapete che viene da Ano? Lo sapevate? Anello, no. Viene da Ano, sì, non lo sapevo, comunque sì. Questa è una cosa, per cui non è una cosa... Cioè l'anno in sé non è contro natura, non è neanche una cosa vergognosa. Sì. Diciamo che probabilmente? Allora, in bocca a certi discorsi diventa una cosa o che suscita riso oppure non so cosa devo dire. Ma no, non capisco questa cosa tra Anello e Ano, scusi, non ho capito. No, ma è venuta per cambiare discorso. Voleva cambiare discorso. È per dire anche che, voglio dire, cioè, omnia munda mundi, no? Sì, sì. Cioè, per cui se uno vuol caricare i discorsi sull'Ano di contenuti, mica l'ho fatto io, adeguati. Lo può fare, certo. Cioè, sentiamo però Mussolini, perché io mi ricordo un proverbio brianzolo, no? Che forse vale anche da... a parlare de cue de merda l'anima la si conserva. Ecco, la traduzione è che finché si parla di questioni anali nel senso escrementizio non c'è nessun pericolo morale. In questo senso, in un altro senso no, è la cosa. E noi cioè le cose fanno ridere perché giochiamo sul doppio senso, però, attribuito da Scilipoti. Però scusi un attimo, cioè Scilipoti la butta anche sul fascismo, cioè su Mussolini, una cosa pazzesca. Sentite, il DNA, parla di DNA, una cosa pazzesca, una cosa incomprensibile anche, sentite. Bellissima quella foto, eh? Questa è bella, eh? Quando era questa? Al congresso, al primo congresso. Di Mussoliniana memoria, però, ecco, io mi aspettavo, Ma dico, in effetti la posa c'è. La posa c'è, sì. Molto vittoria come... Vittoria, sì. Ammiro, davvero. Cioè io non pensavo a Mussolini. Ovviamente la nostra regia che la sua. Però è stata era molto spontanea. Vittoria, vuol dire che c'è qualcosa lì dentro dal codice genetico che porta ad alcuni pezzi. Lei vada fiero. Il codice... figlio segreto di Mussolini. Vespa, sei fratello di Bruno Vespa. Solo cuore. E poi parla anche di cose buone fatte da Mussolini, sempre Scilipoti, Ma come mai ancora in è impazzito. Sentite. Alcune scelte che sono state fatte da Mussolini, secondo me, sono state delle scelte giuste nell'interesse del paese, tipo? Nell'interesse dell'Italia. Poi ci sono state alcune scelte che non erano perfettamente... Quelle giuste quali sono state? Ma tantissime, alcune riforme che sono state fatte. Le opere pubbliche, scuola. Ci sono molte delle strutture... L'euro. L'euro è bello, l'euro. Perché ogni tanto parli di euro, tantissime le cose. Lo storico Scilipoti su Mussolini. Ma è meraviglioso che sia ancora libero. E che vuoi fare? È così. Senta, come giudica in due parole, poi riprendiamo dopo la pubblicità, Farina, quello che ha detto Ingroia qui a Radio 24? Che effetto le ha fatto qui alla Zanzara? Ma mi ha fatto un effetto molto deprimente, perché mi sembra, come sempre, questi di Magistratura Democratica tirano fuori il nome di Falcone per rendere sacre le loro idee, dimenticando che Falcone è stato, dal punto di vista della carriera in magistratura, è stato fuori proprio da Magistratura Democratica. Però qui da noi non ha parlato di Falcone, ha parlato dell'inizio criminale di Forza Italia. Ah, ecco, ma mi sembra contraddetto dalla storia. Non credo che Scilipoti direbbe una parola saggia su questo come storico, ma io sono sicuro che non è così. Senta, ma lei l'idea prenderebbe qualche provvedimento disciplinare? L'idea di Forza Italia, il primo che ne disse qualcosa, l'ho ritrovato nei giorni scorsi in una mia vecchia raccolta del sabato, settimanale, su cui scrivevo. Sì. Nel 93, in un'intervista di Maurizio Caverzan, Carlo Freccero, che allora era... uomo... Cioè, ha inventato lui Forza Italia, dice lei? No, disse che Berlusconi aveva in mente di fare un partito di centro. Peraltro, c'è un pentito... Devo dare la borsa però, borsa, torniamo subito. Che borsa. È stata la Lega un'invenzione di Riina. Come una Lega l'invenzione di Riina? Borsa, torniamo subito, è curioso. Un solo cuore, un'unica idea. Bene, siamo qui 800 24 00 24, qualche ascoltatore in collegamento con noi da Roma, Renato Farina. alias Betulla, PDL. Parenzo, ci sei? Eccolo, certo, certo. Ma che hai? Se hai la voce bassa, abbattuta, non hai la non rispondi in maniera. Sono, che hai oggi? Sono abbattuto anche dalle cose che sento, perché ormai mi pare che trionfi il sequestro dei corpi, il sequestro dell'amore. Ma parli come Pannella, parli come Pannella. Il sequestro dell'amore, cioè Farina e il Vaticano hanno sequestrato l'amore, l'amore con il Parlamento europeo, dai. Ma di che parla? Ma di che stai? Con leggi incriminogene, ingiuste. Ma di che stai parlando? Sai che Pannella ha annunciato un nuovo sciopero della fame sulla questione della. No. Sì, per la questione delle carceri, sì. Le carceri. Come che non sono temi importanti le carceri? Sì, scusa. Sì, perché non è che uno può fare sempre lo sciopero della fame nelle carceri. Lo fa perché lui usa il suo corpo come strumento di lotta politica. Perché che non lo fa? No, ma che è sta storia della Lega e della mafia, scusi, Farina, è sempre nell'incartamento dell'Utri, io ne ho scritto in un mio libro. Allora, un pentito disse che un giorno parlò con Riina e gli chiese se bisognasse eliminare Bossi, che doveva venire a Catania, mi sembra nel 91, addirittura. Bossi a Catania, e Riina gli disse no, non devi farlo perché la Lega è una cosa nostra, è stata una cosa pensata da me, Riina, con Andreotti e Miglio. Addirittura. È negli atti del processo dell'Utri. Ma è credibile secondo lei questo pentito? Secondo me è molto, no? Addirittura? Come faccio? No, che... sicuro, no? Cioè questo è... E che ne so? Ma il problema è questo, cioè voglio dire... Ah, che ne possono dire di tutti, allora, i colori, dice lei. Le dicerie, oramai le dicerie su Forza Italia sono immortali. Forza Italia non c'è più, ma le dicerie su Forza Italia resistono. Anche questo è vero. Allora, io credo che sia proprio una falsificazione assoluta quella di Ingroia. Ma c'è stata una condanna a 7 anni in appello. Che poi, voglio dire, la mafia abbia cercato... Come sempre, essendo la mafia per sua natura filo governativa, dovunque si allea con il potere dominante, un po' come la Chiesa, cioè che cerca sempre accordi con il potere per fare il proprio interesse. Quella la mafia della Chiesa come la Chiesa. Altissimo, quella della mafia orripilante, no? Sì. Ecco, per cui che abbia cercato poi di condire un eventuale successo di Forza Italia a suo piacere, ci sta. Gusto è un conto, ma il fatto che, voglio dire, abbia scelto Forza Italia in una certa fase non significa, peraltro ha scelto anche la Bibbia come riferimento dei suoi pensieri, e non per questo la Bibbia è una cosa della mafia. Voglio sperare di no. Farina, con questa lo dico sapendo quello che dico. La mia esperienza di rapporto con Forza Italia non ha nulla a che fare con quello. Senta, cosa, Farina? Credo che neanche la vicenda della Sicilia abbia a che vedere con quello, perché Forza Italia non è nata per fare un piacere alla mafia. E questo dice Ingroia, che è una bestialità. Ma lei lo sospenderebbe, Ingroia? È un po', diciamo, un po' siciliocentrica, no? Questa cosa. Ma secondo lei può fare ancora il magistrato, signor Ingroia? Ma non sono io a dover giudicare. No, secondo lei è uno sereno che può fare ancora il magistrato oppure no? Ma può fare, secondo me, il magistrato di accusa. Questo sì, è la sua specialità. Fa solo anche questo. Un po' monocorde, ma comunque. Monocorde. No, senta, diciamo che, voglio dire, diciamo che un po' come la mafia ha scelto Forza Italia, un po' l'ha scelta anche lui. Ecco. Cioè, è fissato, dice lei, no? Ma sì, cioè io non riesco a capire. Poi... Ingroia, tra l'altro, è un uomo di grande spessore giuridico, cioè non è, e questo mi spaventa ancora di più, perché perché si è fissato su questa cosa. Voglio dire, se fosse un cretino, dice lei, uno dominato da dei sentimenti, senza base scientifica, invece lui riesce a trovare la quadra, anzi io preferisco dire la rima, tra i suoi sentimenti politici e il codice, creando un mostro accusatorio che si è specializzato nel mordere Forza Italia e tutto ciò che è nei suoi dintorni. E dunque tutto questo è ancora più pericoloso. Bene, grazie a Renato Farina di essere stato con noi. Grazie a voi di avermi chiamato, mi ha fatto molto piacere. Tiri su di morale, Parena. Lo so, dai. Non so che cosa. Il Parlamento europeo è con lui. Il Parlamento europeo è sicuramente con Perez, un po' anche con me, devo dire. Cioè, con tutti voi, no? Lotta con voi. Vive e lotta insieme a noi. Fateci vivere, non sequestrate l'amore, Renato, non sequestrate l'amore. Su. Grazie, a presto. Grazie, a presto. Patrizia da Milano, 800 24 00 24. Patrizia. Che cavolo, ma quanto ci vuole per parlare con lei? Ma con me, con lei, con noi, con tutti? Con lei, con Parezzo. Vada. Allora, io una domanda voglio fare. Perché lei deve insistere? Ma su che cosa? Adesso che mi ci fa arrivare. Perché lei deve insistere? La sento male, Pier Giorgio da Roma, adesso la richiamo, Patrizia. Pier Giorgio. Sì, vada. Buonasera. Buonasera, io ringrazio per avermi dato l'opportunità di intervenire in questa trasmissione. Sì. E volevo esprimere semplicemente il mio punto di vista, ossia io ho 40 anni e sinceramente per quello che vedo, quindi nasco negli anni 70, oggi come oggi vedo intorno a me solo macerie. Solo io macerie, penso che sia scoppiata. Iniziamo bene, una cosa molto ottimista. Ma purtroppo penso di essere realista, non ottimista, perché è come se fosse scoppiata tra le mani una, chiamiamola una bomba di libertà, perché la libertà, non sapendone fare il giusto uso, è veramente un qualche cosa che distrugge una società dalle fondamenta. Quindi io ritengo che anche questo discorso del matrimonio da gay, così come sicuramente da un momento all'altro mi aspetto anche il diritto di adozione o altro, io non penso che sia qualcosa di sano fare ad esempio crescere un bambino in una famiglia con due padri o con due madri. E dicevano in Toscana un vecchio detto: senza regola non c'è convento. Quindi se noi calpestiamo e abbattiamo tutte le regole, ma che dobbiamo abbattere? Che dobbiamo abbattere? Scusi, che dobbiamo abbattere? Abbiamo abbattuto semplicemente tutto, anche il fatto, noi abbiamo creato, abbiamo inventato anche tutti i buchi che ha fatto la finanza creativa, perché economia, c'è una parola greca. Ma lei sta passando dalla finanza creativa ai gay, ma di che sta parlando? Di che sta parlando, Pier Giorgio? Di che parla? Io sto parlando le macerie di questa società, ma di che parla? Ma lei sembra uno di Forza Nuova, non so, di questi movimenti qua un po' millenaristi, un po' catastrofisti sul mondo attuale. No, guardi, non sono né millenarista né catastrofista. Luddista. Però sinceramente io penso, guardi, una tra tutte le regole, la prima che toglierei è la cosa legale, la quantità legale di droga che una persona può detenere. Non deve essere legale, punto. Bene. Ad esempio. Non deve essere? Non deve essere legale, assolutamente, neanche la minima quantità. Ma è un problema fondamentale per la società di oggi, un problema di cui discutono tutti, ha sprombattuto, un problema fondamentale, proprio un problema di strettissima attualità. Pier Giorgio, la ringrazio. Massimo da Lecce, buonasera. È l'orario che chiamano. Vada, Massimo. Ok, allora io vorrei dire ai suoi ascoltatori di traghettare su un programma un po' più serio, un po' più consono, su Rai 1, Rai Radio 1. Sì, benissimo. C'è il dottor Forbici che fa una trasmissione. Noi siamo molto contenti di questo. Sicuramente non noi volgare siamo, come la sua. Noi siamo molto contenti. Non volgare come lei. Ma perché ci sta chiamando? Perché ci sta chiamando? Scusi. Per traghettare un po'. Ma che traghettare? Ma vada sul traghetto invece di traghettare. Prenda il traghetto. L'ambulanza dovesse pagare. Prenda il traghetto. Deve chiamare l'ambulanza. Lei vuole fare il traghettatore. Quell'altro lancia in maniera che quei pochi ascoltatori che l'ascoltano, pochissimi. Lei vuole fare il traghettatore, abbiamo capito, il caronte di ascoltatori, vuole traghettare la sua anima. Ma la mia anima mi pare un po' complicata, ma l'anima dei mortacci, su, ma lo dica il Parenzo, questo è il modo di fare di Parenzo. Ma è una battuta, no, non è una battuta, è un'offesa. Ma lei, ma il tono di questa trasmissione è diventato questo. Sì. Voglio dire, lei ha contribuito notevolmente alla. Posso dirle una cosa con affetto? Non lo so, no, faccia un intervento su qualcosa di concreto, non su queste minchiate, mi perdoni se uso questa parola, minchiate. A proposito, io ho semplicemente detto: se lei ci tiene realmente che i bambini non ascoltano, mi riferivo alla questione di Scilipoti. Se lei non ha capito, la colpa non è mia. Io ho capito. E allora, se lei ha capito. Se la crisi si metta l'anima in pace. No, mi scusi, mi fa parlare? Ma lei può dire quello che vuole, forse non ha capito bene che qui può dire quello che vuole e altrove invece non lo può dire, sia chiaro. No, lei fa finta che possiamo dire quello che vogliamo. Lei sta dicendo quello che vuole, naturalmente poi a un certo punto decido io, non è che può fare il monologo. Ma si rende conto? Lei si rende conto? Allora, io mi scusi, parliamo una volta? Ma non è che decide lei come parlare, ma forse non è chiaro che non decide lei come si parla o come non si parla. Cioè, lei forse non si rende conto di una cosa, che lei ha ascoltato la trasmissione come tutte le sere fa, per me. Tutte le sere lei l'ascolta e si arrabbia, va benissimo, ma l'ascolta. Poi oggi ha preso il suo telefono e ha composto il numerino 800240024 e ha speso 10 minuti, 20 minuti del suo tempo per parlare con noi. Ma io non posso che amarla. Ma è da competenza. Parenzo? È il suo parere da competente? Ma che vuol dire competente in questo caso? Voglio dire, il signor Parenzo si è espresso in un teorema che probabilmente lo rende competente, altrimenti non si sarebbe espresso così in maniera saccenta. O no? Saccenta? Ma cosa ha detto? Saccente. Te lo dica, capito? Vabbè, saccenta. No, saccenta non è uguale. Hai ragione, ma voglio dire, adesso non corregga me, si può sbagliare. Infatti si può sbagliare, non è un problema. Non c'è bisogno che lei sottolinei. Beh, ha detto saccenza. No, cioè. Comunque, guardi che il traghettatore è un bellissimo mestiere, quello di il traghettatore, è un ottimo mestiere. È una travota dicono a Napoli. Io dicevo è bellissimo che se lei come ci tiene a non offendere i bambini, lei non fa sentire e non ripete 50 volte quello che ha detto. Lei non ha capito. Purtroppo non capisce, ma io non le posso spiegare tutto. Non le posso spiegare tutto, purtroppo lei... Mi spieghi una parte? No, ma c'è un piccolo problema che lei non capisce, per cui non mi capendo, è complicato. Secondo lei io capisco. No, ma non è che glielo posso spiegare, non so, in termini molto semplici. Lei sa che cosa significa fare una trasmissione radiofonica? Lei no, lo sa? Non è il mio mestiere. Non è il suo mestiere. No. Allora, abbia pazienza. Sì, cosa devo mandare? Cosa non devo mandare? Se dico ai genitori non fate ascoltare i bambini, come lo dico e come non lo dico? Lasci fare a ma me. Ma lei lo dice nel senso che non è che lo sta dicendo per proteggere i bambini. No, lei lo sta dicendo per enfatizzare i bambini. Ma no, per ma che cosa questo tono, Massimo, ma che cosa strana che lei ha scoperto, ha fatto la grande scoperta del secolo. McLuhan. Ha fatto la grande scoperta del secolo, caro Massimo. Allora, eccoci qui. Qualcuno mi dice che manca il pezzo sulle prostitute del mitico Scili, caro anche Massimo. Gli regalo pure questo se vuole, se non sta zitto, metto il carico da 90. Sto scherzando naturalmente. Dov'è la cosa sulle prostitute? Non c'è però, Non c'è. Vabbè, lo prendiamo. Ma chi ha detto? Se c'è, non lo so, qualcuno mi segnala c'è anche la cosa sulle prostitute di Scilipoti, però aspettiamo, Allora Massimo, vuole concludere? Sì, mi dica. No, ma dica lei. Ha chiamato lei? Ah, no, voglio dire, lei può mandare tutto quello che ritiene più opportuno, ovviamente. Sì. Come ha detto lei prima, e allora? è lei che fa la trasmissione, non certamente io. Ma il tono della sua trasmissione si qualifica da solo. Si qualifica da solo. Bene, ha detto la sua stronzata della serata, grazie. Andiamo a Pisa. Alessio, buonasera. Buonasera. Vada. La ringrazio per fare queste trasmissioni qua che sono fantastiche, veramente. Che sta facendo? Comunque, sta ridendo? Oh, sta piangendo? Che sta facendo? Sto ridendo, perché dovrei piangere? Se fa queste trasmissioni qua le fa per divertire il pubblico o no? Beh, anche sì, anche non c'è dubbio. Va bene. Comunque, no, il titolo del mio intervento era che auguravo la morte a questi signori qua che siedono in Parlamento, ma a non chi? Perché gli come la morte, male, Alessio, la morte. A chi sì, la... sì, no, chi vuole no, che muoia, per esempio, vi faccio un esempio. Quella Scilipoti prima o no. Chi sta in no, no, no, no, lunga no, vita, no, lunga, io, lì, lunga vita, perché lunga ma io, vita. Ma io infatti no, o gli voglio male, però è l'unico modo che secondo me è per avere un ricambio di questa classe politica bresneviana, comunista e con i prosciutti sugli occhi. Sì, basta. Vabbè. Buona serata anche a lei, parente. È abbattuto, no, signor Alessio. Ciro da Salerno, signor Ciro da Salerno. Però, perché lei ha anche una sì. Pronto? Vada. Ah, salve, Parenzo, buonasera, scusi, quest'anno. No, vedo che sentendo queste trasmissioni fra lei e Milano la mattina, io vi sento, però mi viene la depressione sull'umanità. Comunque le stronzate che si sentono sono enormi. Io chiamavo semplicemente perché un tema che spesso viene toccato da voi, volevo portare un piccolo contributo, se mi consente, di tipo filosofico, culturale. Beh, adesso non esageriamo, insomma, Ciro, cerchiamo di volare bassi. Non... Bravo. Allora, secondo me, ho un'opinione ben precisa, l'omosessualità, gli omosessuali per essere più precisi, sono anormali. Sono anormali, bene. Lei entra nella scuola dei grandi filosofi, dei grandi professori come Scilipoti ed altri, insomma. Chiedo scusa, non vuole essere offensivo. No. Vorrei dire che... aiutiamoci. Un attimo. Scili. Ah, ottimo. Esordiamo con un coro. Scilipoti. Sì, aspetta. Sì. Ma non risponderà, vedrai. Bene. Scilipoti, buonasera. Chi parla? Pronto? Buonasera, stavo cercando il dottor Scilipoti. Volevo Scilipoti in questo momento... in assemblea, la Camera dei Deputati è impegnato in votazioni. In assemblea, cioè alla Camera? Sì, alla Camera dei Deputati. Ah, ok. Sono il dottor Treblichli, è urgente. Purtroppo lascio il cellulare qua, quindi non so che dirle. Gli dica che ha chiamato il dottor Treblichli. Come? Gli dica che ha chiamato il dottor Treblichli, perché lui aveva telefonato prima e c'è urgenza massima di parlargli. Treblichli. Mi ripeti il cognome, per favore? Dottor Treblichli, è urgente Treblichli. Perché mi ha telefonato per il congresso che dobbiamo organizzare e mi ha chiamato prima e abbiamo bisogno di parlare immediatamente con l'onorevole Scilipoti. Treblichli. Treblichli di? Scusi? Di che come fosse chiama? Antani, Treblichli. Sì, io ho capito Treblichli, vorrei sapere dove chiama. Eh no, ma è urgentissimo, chiamiamo da Roma, perché avevamo appuntamento telefonico alle 19.47, poi è subentrato e quindi gli può far presente che siamo in linea, me lo passi un secondo, perché siamo in linea. Scusi, le ripeto, io sono qui con il cellulare solo in ufficio. No, ma è una questione di emergenza. Dottor, cosa posso fare? Io sono in ufficio, lui alla Camera dei Deputati. No, ma questa è una questione, guardi, io, il suo nome qual è, scusi, perché adesso mi annoto tutto. Io sono dottor Cuschera. Come? Dottor Cuschera. No, ma a questo punto io faccio scoppiare veramente un caos. Lei si chiama, scusi? Dottor Cuschera? Cuschera. Galbusera? No, dottor Cuschera. Buschera. Numero di matricola? Perché sono militare, scusi. Come? Non mica sono militare, cosa vuol dire numero di matricola? No, come? Avrà un tesserino di riconoscimento, no? No, io sono un collaboratore. No, qui bisogna venire a capo di è gravissimo quello che sta accadendo, è una cosa gravissima. Dottore, io non so di cosa parlando, la invito a chiamare l'onorevole Pippardo appena rientra verso le 9. No, ma è una cosa di una gravità inaudibile, non se ne rende nemmeno conto, ma comunque prendiamo atto. Numero di matricola del dottor Buschera qual è? Mi perdoni, io non ho la matricola, non so tutto il resto, mi è citato il cognome, va bene così, qualcosa devo dire di mia matricola, mica sono militare, le ripeto. Vabbè. Senta dottore, tu chiami più tardi quando c'è l'onorevole e parla con lui. A che ora? Verso le 9 dovrebbe essere. Ma qui si smantella tutto, bisogna fare prima delle 21. Dottore, prima. No, guarda, ci vedremo in tribunale, grazie. Eccoci qua, che è successo Parenzo? C'è stata una telefonata con la segreteria di Scilipoti? No, non ho capito cosa è successo, veramente. Elena da Milano, buonasera. Un signore che si è arrabbiato. Ma non ho capito nemmeno io, vabbè. Elena da Milano. Mitico Parenzo, se avessi potuto volevo chiedere anch'io una cosa a Scili, perché sì. Mi è sorto un dubbio. Io sono una donna, ma non ho capito a livello anatomico se le donne sono fatte, praticamente sono polifunzionali dal punto di vista dell'ano, nel senso che possono sia espletare e anche ricevere. Invece sembra che la teoria di Scili sia che i gay possano solamente espletare e si debbano tenere solamente per mano, se ho capito giusto. Beh, anche, mi pare una spiegazione corretta, cara Elena, cioè, mi pare una spiegazione corretta, cioè per i gay l'ano deve solamente funzionare come un organo, diciamo, per scaricare, cara Elena. Lei non ha bambini là intorno, no? No, anzi. ecco. Vorrei che poi qualche ascoltatore chiamasse il telefono azzurro. Appunto. Dopodiché, invece, per gli eterosessuali può servire anche ad altre cose. Vabbè. Sembra che ci sia questa nuova scoperta. A lui gli piace così. Che vuole anche fare? Perché ha fatto la risata un po' da maniaco quando la giornalista gli ha chiesto le donne. Maniaco. No. Comunque, guardi, presto ai nostri microfoni. Il tuo amico Cicchitto, Parenzo, che ha detto? Ha rifiutato di andare a servizio pubblico. Nei giorni scorsi avevo aderito all'invito di Michele Santoro per partecipare alla trasmissione servizio pubblico. Il dibattito si sarebbe dovuto svolgere tra Beltroni, Martelli, Borsellino e il sottoscritto, e doveva riguardare la strage di Via D'Amelio, la presunta trattativa Stato-mafia, eccetera. Apprendo solo adesso dall'agenzia di stampa che alla trasmissione parteciperà anche Massimo Ciancimino. Reputo Ciancimino un falso pentito che serve per depistare l'indagine. Sondaggio, piccolo sondaggio. Ha vinto la Costa Magna o ha vinto la Carfagna? Perché, come sapete, il mondo del web non solo si è diviso dopo questa intervista durante domanda. Il programma Robinson. Beh, alleggeriamo un po', abbi pazienza. Alleggeriamo, non è che prima parlavamo di massimi sistemi. No, appunto, stava parlando il signor Cruciani della Diano e di Cilipoti, figuriamoci. Poi non ho ancora capito quella telefonata che il dottor Triblica, esperto in acupuntura, organizzatore di convegni, eccetera, ha fatto al dottor Schip. No, era arrabbiatissimo perché voleva un numero di matricola, mi pare di capire. Sì, pure quello non l'ho capito. Non so, effettivamente anche il signore, il segretario di Cilipoti, giustamente, secondo me, perché deve avere un numero di matricola? Sì, sì, quello infatti rispondeva l'abilissimo e il bravissimo Cuschera, signor Cuschera. Vabbè, allora andiamo con Costa Magna versus Carfagna. Chi ha vinto secondo voi? Vabbè, io non lo dico nemmeno perché è scontato. Anche per me è scontato. Via. Però voglio dire, anche in televisione avvengono cose di questo tipo, cioè carriere rapide che apparentemente vengono giustificate in base a determinati motivi, all'avvenenza della persona in questione, che poi invece dipendono dal merito. Come anche nel suo caso. Capirai, è un po' diverso arrivare a fare una carriera televisiva e arrivare a essere ministro della Repubblica. Anche sul suo conto ci sono stati molti pettegolezzi. Ho sempre pensato che lei fosse arrivata dove è arrivata non per la sua avvenenza ma per il suo merito. È una diversa impostazione. Sì, no, ma io ero già giornalista quando ma sì, io ero già laureata con 110 lode ed ero militante nel movimento femminile. A proposito della sull'erba molto spesso massacrata, secondo me. Però, per carità, poi c'è pure il diritto di fare le domande. C'è anche il diritto di sbagliare e di essere in difficoltà, cioè non è che non sia un... È bella questa idea di mettere queste due donne a confronto su... Ma di che stai parlando? Sentiamo un altro pezzo. Non mi interessa giudicare Berlusconi come non mi interessa giudicare persone che non rientrano nella sfera dei miei affetti più stretti. Berlusconi è una persona è stato suo testimone di nozze e non è tra i suoi affetti più stretti, non devo essere tenuta a dire e a raccontare quelli che sono i suoi difetti. Questo dovrebbe far parte di una trasmissione di gossip. Siccome io sono venuta qui pensando che questa fosse una trasmissione di approfondimento politico, mi rifiuto di parlare di gossip. Qui me lo faccio gossip, anche per lei, perché farei un torto alla sua intelligenza, al suo spessore e alla sua autorevolezza. Carfagna, Costa Magna, chi ha vinto secondo voi? Grande referendum alla zanzara. Chi ha vinto secondo voi? Rispondeteci, poi daremo il nostro verdetto che sarà ovviamente falso e manipolato. Nino da Torino, buonasera, signor Nino. Buonasera, posso parlare senza essere interrotto per 30 secondi, sarò brevissimo. No, lei può parlare, può dire quello che vuole. Noi poi, se vogliamo, interveniamo. Se vogliamo, se non ce l'ha in quel momento perché siamo distratti, non interveniamo. Secondo come ci piace a noi, insomma, così. Certo, non ha mai fatto, lei è curiosa il modo. Un attimo solo, Nino, un attimo. Signor Pannella. Ah, Marco. Perché Marco adesso? E noi, sullo sopra. Sì. Pronto. Sciopero della fede e della fame per i Falun Gong. Ma no, in questo caso i Falun Gong non c'entrano. Sì, perché non ti interessa? Però lui ha ragione, lui, in verità. Il dramma dei Falun Gong. Quindi c'è quest'altro vantaggio. Marco? Marco? Hai capito? Siamo pronto. Marco? Sono l'esperienza della vittima, come voi. Marco? Che fai? Sì, ma con chi parli, Marco? Marco? Marco? Pannella? Pannella? Pronto? Pronto, Pannella? Ma perché non risponde? Beh, perché sta su un'altra linea, una specie di lotito. Sta spiegando al tartista una specie di lotito. Una specie di lotito. La battaglia sui Falun Gong. Ma non c'entra i Falun Gong adesso. Nino da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Ah, scusi, l'avevamo già presentata, scusi, anzi, ero distratto. Ma no. Vabbè, ma allora... No, volevo, mi associo all'ascoltatore di prima. Sì. Forbice non è meglio di lei. Oddio mio, adesso. Lei non è meglio. Ma io non voglio Forbice. Nemmeno sentire quel nome, non no, mi interessa. No, guardi, non no, mi interessa. Non è, sono questione. Disinteressato. È il suo modo maleducato di oddio. Condurre vabbè. Questa cosa. E perché mi chiama? Però, guardi, e la chiamo per dirglielo. Per dirmelo benissimo. E vabbè. Vabbè, sono maleducato. Mi sta dicendo sono maleducato. È molto maleducato. Sono molto maleducato. Molto, molto maleducato. Vabbè. È soddisfatto? Potrebbero usare. No, ma sei sfogato. Sei sfogato, è soddisfatto. No, ma, guardi, ma le stronzate perché no? Che sono gli altri che le dicono, pensa a quelle che ha detto. Ah, lei, io le dico un sacco. Io le dico un sacco. Capisce. Io le dico un sacco. Da quella posizione lì, voglio dire, alla vuole fine, venire lei? Vuole venire lei? No, ma guardi, io faccio fatica a fare il mio lavoro. Che lavoro fa lei? Che lavoro non fa? Si preoccupi del lavoro che faccio no, io. No, perché scusi, lei, allora, sa, lei sa il lavoro che faccio io? Le sto chiedendo che lavoro fa lei? Sono un imprenditore. E vabbè, non c'è niente di male a fare l'imprenditore, mica un crimine. No, infatti, mica sto dicendo che sia un crimine, certamente non lo è. Appunto, in che ramo, però, scusi, in che ramo? Vari rami. Insomma è abbastanza complesso quello che è complesso, comunque a parte sì. Questo quando uno dice così di solito non fa un cazzo però questa... Prego? No, prego? È una battuta, non ho capito, è una battuta, è meglio non ripeterla sennò vai a finire la rissa. No, ma come vari, non c'è problema, non sono un imprenditore che si lamenta, ecco. No, ecco appunto, no, per cui no, assolutamente faccio è impegnativo, ma comunque ma che fa? In che ramo è? L'ho detto, vai a una cosa, ma o le racconto i dettagli o non gli racconto e non voglio raccontare. No, ma uno sa, c'è il ramo dell'alimentare, la meccanica, allora, il commercio. No, meccanica, diciamo. Meccanica, il porno, meccanica. Che ne so, ci sono tante cose. No, né porno né meccanica. Ecco, vede, sono questi suoi ammiccamenti. Ma quali ammiccamenti? Completamente stonati. Voglio dire, secondo me si potrebbe condurre una trasmissione televisiva, intanto radiofonica, sì. Senza usare le parolacce. Mi vuole insegnare lei? Mi vuole insegnare ma lei? Io non voglio insegnare e allora, a nessuno, basta, semplicemente da ascoltatore. Sì. Certe volte sono disturbato, insomma, da quello che sento, purtroppo. Perché c'è una volgarità proprio gratuita, siccome ce n'è già tanta che ci tocca, almeno quella lì secondo me si potrebbe utilizzare, voglio dire, la differenza fra Monti e Berlusconi, non voglio entrare nel merito delle due cariche, anzi della stessa carica da due persone gestita da due persone diverse, però voglio dire, uno parla beh, è un esempio calzante in buone maniere, l'altro insomma, dico, poi è un esempio calzante il suo canta. Per favore, ecco, però dico, per favore, un briciolino di educazione, di smorzamento dei toni. Cioè, voglio dire, si può dire stupidaggine anziché stronzata, l'effetto secondo me è lo stesso. È semplice. Sì, io credo di sì. Grazie di questa lezione di bon ton. Non è una lezione, né di bon ton niente. È che beh, è il suo parere, io lo prendo. Ma certo, lei fa la radio. Lo rispetto, Nino, più di rispettarla, che cosa posso dire? Non sono d'accordo né sulla sostanza di quello che ha detto, né sulle conclusioni, per cui non è vero quello che ha detto e dunque non sono vere le conclusioni. Ma questa è la sua posizione. Grazie, che è la mia posizione. Di chi deve essere, scusi? Certo che è la mia posizione. Non è vero secondo lei, quello che dico io... Sì, ma siccome si tratta dell'esegesi di quello che avviene qua, potrà ammettere che sarò più autorevole io a interpretare quello che avviene qua, oppure deve essere per forza lei che non segue sicuramente due ore e mezza al giorno, che non segue sicuramente due ore e mezza al giorno di puntata. Abbia pazienza, io sono un ascoltatore, allora. Basta. Fra l'altro non avevo mai sentito la trasmissione, sono tre sere che caparbiamente sì. l'ascolto, perché già mi ha disturbato la prima sera, sì. la seconda perché sei... l'ho ascoltata lo perché stesso, fatto... perché volevo... no, perché per capirti che effettivamente se è così, effettivamente non l'ascolterò più. Bene, ma bravo. Non ascolto più niente, perché non ascolti più niente. C'è poco di sensato da ascoltare obiettivamente. E che vuole fare Nino? Poi, se vuole trovare niente, qualcosa di sensato. No, mi rassegno. Si rassegni. Certo. Io l'abbraccio molto forte e naturalmente lei sarà domani sera qui all'ascolto di Radio 24 La Zanzara. Qui 800 24 00 24. Dove andiamo? Alberto da Bologna, buonasera. Buonasera a voi. Alberto, vada. Allora, io sono amareggiato e indignato. Sono amareggiato perché Radio 24, che come radio è una radio buona, discreta, sì. fa dei bei programmi, vi permette di condurre la trasmissione in questo modo. Invece sono indignato. Lei è un grande, guardi. Sono indignato per come Parenzo ha trattato una persona che lavora. Sì. Con la telefonata che ha fatto a Silipoti. Avere il numero di Silipoti è giusto, potete fare quello che volete con Silipoti. È un numero privato suo, ve l'ha dato, l'avete, prendetelo in giro, che se lo merita anche, tra l'altro, tra parentesi. Però un collaboratore, trattarlo nel modo come avete fatto. Ma è un gioco, su. Con un ascolto nazionale molto grande. Prendere in giro queste persone che era lì per lavorare, per Silipoti. Un attimo. È stata una cosa vergognosa, sono indignato per questo. È indignato, ma lei che fa? Il collaboratore parlamentare? No, io non faccio il collaboratore di nessuno, io lavoro per la mia famiglia, lavoro per me, sono a posto così. Ma è uno ironia, uno scherzo. No, l'ironia la può fare benissimo con Silipoti, la può fare con la Mussolini. Senta Alberto, noi facciamo l'ironia con chi ci pare e non è un'offesa per nessuno, ha capito? No, adesso non mi faccia arrabbiare, fino adesso sto ridendo, adesso prima lei è esordito dicendo che siamo una vergogna, che è una vergogna che lavora, l'avete trattato come come un bagaglio. Ma è venuto così, non l'abbiamo nemmeno studiato, è venuta così spontanea. Alberto, abbia pazienza, su. Voi le cose vengono così. Mi sono ancora più stupito che una radio come Radio 24. E allora scriva alla signora Marcegaglia, scriva a chiunque. Chieda e allora non ci rompa le scatole, abbia pazienza, Alberto. Che cosa vuole? Ha detto la sua, ha detto che siamo una vergogna perché non dobbiamo condurre questa trasmissione. Lei perde tempo. Lei l'ha detto. Che non dovete condurre con la trasmissione. Lei l'ha detto. Ho detto che sono meravigliato che Radio 24. E appunto, e allora che cosa significa? In questo modo. E cosa in questo modo? Noi la conduciamo così. Se le piace bene, altrimenti spenga la radio e passi da un'altra infatti, parte. Quando sento come trattate le persone. Infatti ha chiamato per telefono. Che ospite avete, chiaramente vado da un'altra parte. Bene, bravo. Quando bravo. Cosa mi interessa l'ascolto. Quando siete a livello di è il mercato. A livello di Gianni Pinotto cambio canale. Sì, Gianni e Pinotto sono dei grandissimi comunque, Alberto. Tanto per così, come inciso. Siete lo specchio di un terzo dell'Italia, di quel terzo dell'Italia che ha fatto quello che ha fatto. Cioè che sarebbe, scusi, non ho capito. Siamo lo specchio di un terzo dell'Italia che ha fatto quello che ha fatto, che vuol dire? No, per capire la sua analisi sociologica, perché è interessante. C'è un terzo dell'Italia che lavora e fa sacrifici, un terzo dell'Italia che non fa niente, siete sì. voi, e un terzo dell'Italia che invece ruba. L'altro terzo non si sa cosa fa perché... Bravo, invece lei fa parte dell'Italia virtuosa, ma mi faccia piacere. Ma la finisca di dire stronzate, su. Una categoria, guarda, è lei che mi attribuisse una categoria. Invece io farei parte in automatico dell'Italia che non fa un cazzo. Sì, io non uso quelle parole. Vabbè, che non fa niente. Quindi se Radio 24 vi permette di usare queste parole, andiamo avanti così. Sì, Alberto. Complimenti ancora. Complimenti a lei per aver perso tempo a chiamare per dire delle cose che non hanno alcun senso, se non quello di sottolineare il fatto che lei ha un atteggiamento moralistico ridicolo perché divide l'Italia in tre, figuriamoci. Siamo qui, 800 24 00 24. Mario da Palermo, buonasera. Mi sente? Sì, la sento, dica. Niente, praticamente volevo dire la mia, no? Ho visto che passa uno spot in TV per adesso che dice che se tutti paghiamo le tasse li pagano tutti. E da questo punto volevo fare una domanda, insomma, scusa, io ho prenotato una visita in un ospedale di Palermo il 7 di febbraio e farò la visita il 27 di giugno, cioè dopo 5 mesi. Questo è dovuto agli evasori o è un alibi dei servizi sanitari che non funzionano? Era questa è una domanda un po' complessa, comunque sono i servizi sanitari che non funzionano, in particolare quelli delle regioni che hanno spese sanitarie assurde. Grazie Mario. Quello che pensavo, grazie a lei. Buonasera. Giovanni da Bologna. Sì, ciao, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Volevo dire la mia sull'argomento dell'omofobia. Cioè, in realtà io sono una persona che vive tra l'Italia e gli Stati Uniti per motivi di lavoro. Sì. E devo anche assumere delle persone, per cui mi interesso anche un po' di psicologia. Sì. Allora c'è questa rivista di riferimento americana che è Psychology Today, no? Che è un po' l'American Scientific della situazione per i medici. Allora, tempo fa è stato pubblicato uno studio sull'omofobia. E tu lo sai che quando queste riviste americane pubblicano questi studi, sembrerebbe che l'omofobia sia una forma di omosessualità inconfessata, gravissima, criptata, criptica. Ma, e ti dirò di più, diciamo, questi hanno fatto dei test, perché sai che gli americani sono molto pragmatici, no? Se posso raccontartelo, uno di questi test era praticamente mettere un gay, un eterosessuale e un omofobo di fronte a un... Giovanni, andiamo alla conclusione però? Sembrerebbe che l'omofobo si eccita di fronte a un filmato di sesso gay esattamente come il gay. Insomma, ecco, questo è. Ma trovi, le fobie sono tutte forme di, come dire, di attrazione inconfessata. Pure questi che criticano voi, che ti criticano, però stanno sempre lì ad ascoltarti. Perché anche loro anche vorrebbero... questa è una fobia, certo. No, e niente, salutatemi il dottor Triplicli. Triplica, signor Triplica, esperto in acupuntura, e quella me la sono inventata io dopo, bisognava dirla subito. Forse alla fine se ti annunciavi come esperto in acupuntura ti rispondeva, la passava la telefonata. Non ci hai pensato, vabbè, ma sei geniale però fino a un certo punto. Antonio da Milano, buonasera. Buonasera. Vada. Io volevo dire che sono qua, intanto vi saluto e vi ringrazio, è una trasmissione che malgrado tutte i contrasti e trovo sempre positiva e molto, molto ben guidata. Costruttiva soprattutto. Io volevo dire, il matrimonio è, come definizione vuol dire dono della maternità. Allora? E allora quando si sposa un uomo e una donna ci sarebbe un dono della maternità. Tutti gli altri problemi della cosiddetta sessualità, omosessualità, uomini, donne, così, è una condizione che non dovrebbe riguardare assolutamente... Vittorio? Oh, incapaci. Allora, ma come incapaci? Sì, ma hai scritto delle robe sul giornale? Ma che è Don Sgarbi. Sì. Ah, è Don Sgarbi, sì, Don Sgarbi. Monsignor Sgarbi. Sì. Ma che scrivi? Hanno vinto i gay. Ma di che stiamo parlando? Perché? Non lo so, perché io ero a Parigi e ho scritto un pezzo sul matrimonio. Non so, per voi quello che ha votato il Parlamento corrisponde al titolo del giornale. Sì, ma hanno scritto hanno vinto i gay come se avessero vinto qualcosa. Corrisponde o no? Non lo so, può che sia una mozione. Adesso ti sei messo a difendere le posizioni più conservatrici. Ma ti puoi far prete. Ti dirò di più che il prossimo articolo che leggerete è quello per impedire i matrimoni. Cioè il tema non è il matrimonio gay, è il matrimonio che è una cagata. Sì. È una cosa che appena... per gli eterosessuali, e figuriamoci per gli omosessuali, i quali non avendolo lo vorrebbero avere. Questo è il tema di fondo, voi siete troppo indietro. No, ma questo è giusto però, su questo ti seguo. Su questo c'è il matrimonio? Il matrimonio c'è perché due idioti si mettono insieme e per loro diletto fanno un bambino, perché altrimenti non sono contenti. Questo bambino, se nasce settimo figlio di un disoccupato di Gela, sì, andrà a cagare suo padre, non diciamo poi di un pastore di Addis Abeba. A questo punto è chiaro che il minimo che può fare il padre è mantenerlo, e quindi la famiglia esiste per mantenere l'idiota, cioè Parenzo, che è nato da due che l'hanno fatto, deve essere pure mantenuto, come io mantengo mio figlio. Ma due uomini che non fanno figli, si rendi conto? Cazzo, si devono mantenere l'un l'altro. Uno ha 70 anni, trova uno di 30, ha una pensione dello Stato come insegnante, poi muore e la deve dare al trentenne per prendere 40 anni, ma siamo matti, ma perché? Ma quale ragione al mondo? Ma se glielo vuole lasciare sta pensione, gliela lasciasse, no? ma le può prendere già quello che vuole, ma perché gli dare i soldi dello Stato della pensione che lui prende a uno che si è sposato con lui solo per l'interesse? Lo amava, lo prenda nel culo e sia contento. Ma felice, no, ma proprio tu sei contento, come io sono stato con centinaia di donne per pura felicità, non le ho sposate. Questa è un'analisi interessante. Ascolta, lo prenda, non quelli talmente arcaici, i diritti, ma che cazzo di diritti? I diritti dell'uccello, ma quali diritti? Due si amano, punto. Si lasciano, poi uno muore. Oh, secondo me c'è la Grillini, con questi dibattiti di commedia, ma quando poi lui sta male, chi va all'ospedale, e chi gli tiene la mano, e chi va al funerale, oh, affanculo. Ragazzi, sarebbe il gay questo qua, è una rottura di coglioni. Va proibito per legge il matrimonio. Sei solo i coglioni. Ma è completamente insensibile. Io sono ti giuro, è la cosa più bella. È la cosa più bella che ho mai ascoltato negli ultimi anni. Ma guarda, ma Vittorio. Aborto di due genitori che hanno partorito un nano come te, schifoso. Ma sei, guarda, sei di una insensibilità. Poi guarda, io te la devo dire tutta. Mi fate cagare voi due. Aspetta, due. Aspetta un attimo, aspetta. Tu il sole che li paga, il sole 24 ore che li paga, due proprio fannulloni, due nulli. Allora, non simpatici, ecco, umanamente simpatici. Però, allora, Parenzo, che li devi dire? Parenzo, che li devi dire? Sposatevi, e quando muore il peggiore dei due, lasciategli la pensione di Radio 24. Fate così. Guarda, noi almeno avremo la pensione del privato, visto che tu sei un bene pensionato e a 54 anni hai preso una pensione di 4 euro di merda. Ma guarda un po', i soldi miei, i pochi che prendo, vanno a tre figli. Vabbè, ma mica l'ho fatti io i tre figli, fame, quei tre disperati, coglione di un Parenzo, ogni volta che apri bocca, 54 anni, nel buco del tuo inutile culo. Ma scusa, tu e il tuo compagno lì da coppietta, il cose, ma perché non ti sposi con Cruciani, rincoglioni di un Parenzo, che una volta era un ragazzo così sottile, la baby pensione, però te l'ho chiesta io, me l'han data, dillo lo Stato, imbecille. Hai preso la baby pensione a 54 anni? No, ho preso la pensione di parlamentare. Baby pensione, hai preso la baby pensione? E se una cosa c'è, la prendi anche tu, imbecille, già ti pagano per andare per radio, dovresti pagare tu, ti pagano per dire delle stronzate con quella zucca vuota che hai, ma vuota proprio spinta. Sono soldi privati, non del pubblico. Ma quali soldi privati? I soldi della mia pensione mia sono quelli del Parlamento. Sì. Allora, beh, e di chi sono? 9.000 euro al mese. 9.000 euro al mese. Dagli indietro che li prenda tu, rincoglionito di un animale cornuto. Ma a chi gli dai quei soldi? Ma perché? No, i miei tre figli, io tutti i soldi che arrivano. Ho capito, ma scusa, ma i tre figli non è che ho deciso di farli io, no? Mica è colpa tua. Hai fatto male a farli. Ho fatto male a farli, come tutti quelli che li fanno, io li ho fatti per caso. Gli altri li fanno per avere dei ninnoli in casa. Ah, ma guarda questo bel bambino, che begli occhietti azzurri che ha. E guarda un po', ed eccolo lì. Oh, tac, mantenerlo. E manteniamoci i nostri divertimenti. Ma due che stanno fra uomini e fanno benissimo a farlo, se gli piace, sì. Perché dovrebbero avere il diritto di avere la pensione di uno dei due? Ma perché? Ma se lo vogliono, sto diritto, diamoglielo. Ma perché? Perché la legge deve essere fatta a lei, se deve dire fate quello che volete, sposatevi, amatevi, ma non chiedete soldi dello Stato. Fine, punto, ma basta. Però, buonanotte. Ma la pensione di uno andrebbe comunque al parente più vicino in qualche modo, no? Cioè... No, va soltanto alla moglie, cioè la pensione di reversibilità è per la moglie. Sì. Se tu ti sposi con il parente e sei professore, sì. Ma io non o una roba di quelle lì qualunque di soldi statali, i tuoi soldi vanno alla tua mogliettina parenta, alla parenta, hai capito? La parenta si fa tu, naturalmente questo vale se uno ha 70 anni o 80 anni e l'altro ne ha 30, sì. Perché poi per altri 50 anni lo Stato deve dare i soldi della pensione a quello di 30. Questo è detto, questo è scritto, ma non me ne frega niente, poi perché non è una questione di matrimonio, io sono contro ogni matrimonio, contro, e quando una storia finisce uno di due muore, arrivederci e buonanotte. No, la pensione c'è la vedova del generale, la vedova dell'affare, la vedova del magistrato, vaffanculo. Scusa, poi c'è la questione pure delle visite, no? Che uno non è ammesso quando ci sono le visite. Non è ammesso. Quelle possono pure ammettere, ma quando lui è all'ospedale malato, che vai pure, entra pure tranquillo, paga per entrare. Il ragionamento era questo. Poi io voglio abolire il matrimonio. Fine. Sei insensibile. E tutti i diritti conseguenti. Parenzo dice che sei insensibile. Sei insensibile. Ci sono insensibile ai vostri amori, a voi due culattoni di Radio 24, gay, Comunque non siete antipatici, siete bei ragazzi, delicati. Comunque, fatto sta che tu prendi 9.000 euro al mese da quando hai 54 anni perché hai fatto 3 figli e non ti sei messo il preservativo e rompi pure i coglioni a noi. Allora, io l'ho fatto io perché ho fatto 4 legislature, questo non c'entra niente. Cioè, tu colleghi delle cose sbagliate. Un diritto, sia pure a 54 tutto, anni. Un diritto, ma te ne frega te, è così. Ma te, perché non te voglio dire, il problema non è. Rinuncia e prendi la pensione. Fatto, idiota! Ma quando mai questa idea della rinuncia è una. Prova tu a rinunciare, brutto maiale di merda! Ma che lo devo rinunciare? Ma come ti salti in mente? Questa idea ridicola, rinuncia, si può rinunciare, devo rinunciare. Hanno alzato l'età pensionabile. Le tasse che pago vadano spese in paleoliche, in rotatorie e altre puttanate. Questo è già. Poi guardate alle cose invece che io. E che guardiamo? Ma che dovete guardare, siete due edifici. Poi soprattutto Cruciani è anche tollerabile, ma Parenzo è proprio diventato un uomo di una retorica grottesca. Rinuncia, ma cosa rinunci tu? Che devi ancora pagare il conto di Giacomo. Andiamo da Giacomo e vedere cosa pensa di te. Ancora tu sei quello che a 400 basta. Euro volevi chiedere lo sconto. Sei un poveraccio, regalo, ma se mi hai portato 10 persone amiche tu a mangiare tutto 1000 volte la tua merda di Tele Lombardia gratis per aumentare gli sconti e pagare te che non vali un cazzo. Ringrazio il cielo, animale, cornuto, incapace, morto. Comunque, detto questo, non voglio più parlare con voi, non chiamatevi più. No, come non chiamatevi più? Sembra... Due cornuti. No. Poi io voglio parlare con Cruciani, quell'altro Parenzo, quella, quel nano malefico, non lo voglio vedere. Io più piccolo del cavaliere, più piccolo del cavaliere. No, comunque Parenzo nano. Ma io gli ho detto, solo perché ti ho detto che dovessi andare in pensione come tutti gli altri italiani, hai capito? Non devi dire sono andato in pensione da parlamentare con una legge non fatta da me, idiota. Quindi il problema non riguarda me e non voglio rinunciare a niente come non rinunci tu, che non paghi i conti al ristorante, capra. Traffico, no, borsa. La tua televisione lì a fare Lombardia dove fai la patacca. Il patacca, quello sei, un patacca. Borsa. C'è stato soltanto un parto anale nella vita, nel mondo, e guarda caso è venuto fuori Parenzo. Eccoci qui ancora con Vittorio Sgarbi. Di qualcosa Sgarbi, Parenzo. Mi ammoscio adesso, ho pensato. Perché mi sono adesso molto seriamente, dico all'amico Vittorio, nonché baby pensionato, che se quale in un baby momento... pensionato, idiota? Ma quale baby pensionato? No. Sono regolarmente pensionato dopo 4 anni. A che età sei andato in pensione? A via 30 anni, imbecille. A che età l'hai presa la pensione? L'hai presa la pensione? Capace, morto di sonno. A che età l'hai presa? 54, 55. 54 che cos'è? Un baby pensionato alla fine? No, non si chiama baby è molto prima. Allora, vabbè, più o meno, dai, su. Adesso è grande alla zanzara, grande Vittorio, grande, mai mi sei piaciuto tanto. Io devo sprecare la voce per far guadagnare voi due parassiti, incapaci. Ma quale incapace parassiti? Ma perché incapaci? Almeno questa stronzata che non riguarda me, riguarda almeno 2000 parlamentari. E beh, ma che c'entra? Scusa. Certo. Cosa devo fare? Farmi una legge al personam contro di me per sentire due idioti che ripetono... Allora, dato che non ti interessa lo spreco delle baby pensioni o delle pensioni date troppo anticipatamente ai parlamentari, almeno consenti che i gay possano avere la pensione, no? Che? Cosa devo fare con le pensioni? Non ho capito. No, almeno ammetti... Il diritto alla reversibilità per quelle coppie omosessuali o per questo... Ma le coppie omosessuali cosa c'entrano? Ho semplicemente scusato che il matrimonio stabilisce una serie di regole di natura pratica che sono quelle per cui vogliono il matrimonio. Guarda, ascolta... Il costume e la legittimazione dei rapporti gay c'è da un pezzo. C'è, non so, Armani che stava con quell'altro, e Dolce che sta con Gabbana, non è che la società li respinge, loro vogliono diritti materiali, vogliono avere la possibilità di avere la pensione, l'eredità, tutte cose che possono, l'eredità uno può darla a chi gli pare, per cui non è che sia la norma attuale tale da impedire quello, certo. La paga, no. Non ho capito che cosa devo, quali sarebbero i diritti, e poi noi che dobbiamo parlare di questa materia. Avete le vostre idee, tenetevele, io mi tengo le mie, che sono, come ho spiegato dall'inizio, contrarie a ogni forma di matrimonio, a tutti i matrimoni. Senti, ma perché una volta eri un liberale e ora sei diventato Monsignor Sgarbi? Anche no, l'altra volta. Ancora di più, perché i monsignori sono per i matrimoni, io sono contro. Siccome tu sei un idiota che non capisce, ti ricordo che io sono per la totale anarchia, e perché gli amori nascono e finiscono. No? Senza soldi, né prima né dopo, chiaro o no? Ma una, ma no, una società si con quello che è ricco e poi prende l'eredità e poi prende la pensione e poi prende, ecco, questo mi fa cagare. Scusa, se Vittorio, sposate, fatelo per amore. No, ma chi si vuole sposare con Parenzo? Sposarvi per amore. Ma ti pare che io mi sposo con Parenzo, secondo te? Dai. La cosa migliore che puoi fare, no? Come sempre in mezzo ai coglioni quel nano malefico. Scusa un attimo, ma voglio dirti una cosa, ma invece parliamo un po' del signor Ingroia. Ah, sì, ancora. Sì. Del signor Ingroia. Beh, qui a Radio 24 ha fatto delle dichiarazioni esplosive qui alla Zanzara, Come? Qui alla Zanzara, ha fatto delle dichiarazioni. Ho trovato ragazzi per strada. Come sono io? Sei un grande, Vittorio. Cornuti, incapaci, prendolo. Ma che c'entra? Che c'entra noi con quello che dicono quelli per strada? Avrei pagato quella comparsa, sei tu che sei abituato a pagare e a non pagare, che ci ha preso dei soldi a non pagare. Cornuto di merda. Sei un grande, Vittorio. Sei un grande Vittorio, sei un nuovo, cosa c'entra? Avrei pagato quella là che passa per strada. Non pago nessuno, se voi siete in giro con me qualcuno vi guarda. Se siete in giro da soli non vi fila nessuno. Uno perché è brutto come un mostro, ciao bella, e l'altro perché è un incapace nano. Ciao. No, di chi parli? Comunque, Ingroia cosa c'entra? Ingroia ha scritto delle fesserie e basta. No, da noi ha detto. Sono venuto a Salemi. Tu sei venuto a Salemi, dico il 2, il nano. Il nano. Ti sei accorto quanto la mafia ci impedisse di parlare? Sì. Allora, io non riesco a immaginare che uno debba continuare all'infinito a inventarsi delle cose che non ci sono e darsi il suo ruolo. E Iacoviello, che è molto. Ma c'è una sentenza d'appello che lo ha condannato a 7 anni. Ha detto, ditemi che reato ha fatto Dell'Utri, non che è mafioso perché è andato a pranzo a giocare a calcetto con questo e con quello. Se uno va a pranzo, se tu vai a pranzo con Parenzo, se va a pranzo con un mafioso, non è che a pranzo abbiate fatto un delitto, avete pranzato, punto. Vabbè, è un attimo più è un attimo più consistente la cosa. Di qual è stato il motivo che ha portato le persone in contatto. No, però scusa un attimo, Vittorio, qui c'è una cosa, tu ti sei perso perso un passaggio. Cioè il signor Ingroia è venuto qui alla Zanzara l'altra sera. Siccome tu eri fuori, non hai ma non vi ascolto mai. Ma no, noi l'hanno scritto sui giornali, Vittorio. Ma ancora, per cosa ha detto questo? Ha detto che Forza Italia, che Dell'Utri è un ambasciatore della mafia al nord. Spero che Dell'Utri lo quereli. Ha detto anche che Dell'Utri ha creato Forza Italia per interesse della mafia. Per interesse. Ma è una cosa, io datemi la registrazione, la faccio riprendere così li denunciamo tutti. Ma oggi è su tutti i giornali, oggi è su tutti. È un diffamatore pagato dallo Stato, è una persona pericolosa. Oltretutto io ho parlato con Vito Sancimino, che mai ha adombrato nessun rapporto con Dell'Utri o l'altro, con Berlusconi. Quanto alla questione di cui parla il nostro, non c'era bisogno, non c'era bisogno di nessun ambasciatore, per il semplice fatto che i problemi di cui parla il nostro fanno riferimento a Mangano, che è l'unica arma che hanno in mano. Peccato che Mangano, quando è stato assunto come stagliere, non fosse indagato per mafia. Allora bisogna cominciare a smetterla, siccome Iacoviello è uno che ha studiato e Ingroia deve ancora andare all'asilo. Ma credo, come mai un giudice di Cassazione dica delle cose e ci sia un magistrato che si permette di dire che non sono vere? Ma non è un PM. Però adesso lasciamo perdere Iacoviello. Qui c'è un altro fatto che è successo. No, quello continua a dire che è un ambasciatore della mafia, quando invece questo signore che ha fatto il procuratore generale ha dichiarato che non c'erano elementi per andare avanti con questo tipo di indagine o condanna, deve fare un processo, perché il processo potrebbe essere condannato per mafia. Ingroia, secondo te, è ancora in grado di trovare il reato, nel caso di Cuffaro. Ho capito, siccome continua a parlare. Siccome continua a parlare e continua a dire delle cose su Forza Italia, sulla mafia. È una domanda. Secondo te, Vittorio, può continuare a fare il magistrato? Bisogna fare qualcosa? No, ma non è mai stato un magistrato. E che è stato? Ma non lo so, è uno che ha fatto propaganda e continua a farla attraverso il suo ruolo, invece di fare il politico ha fatto quello e ha dato a Sancimino. Io dico, voi conoscete il procuratore Lari? Sì, come guardate no. Guardate quello che Lari dice di Sancimino e quello che dice Ingroia. Potrò decidere che di due magistrati preferisco Lari o preferisco Iacoviello rispetto, perché preferisco io, non è che parlo di materie diverse, ma della stessa materia. Uno è uno che non ha studiato e che si è inventato un ruolo e continua a raccontare balle e inventa cose sulla base del fatto che non è nato a Palermo, con il sostegno a concorso esterno dei vari Bolzoni, del Palermo mafiosa. Palermo sarà anche mafiosa, ma non sarà solo mafiosa. E quindi, voglio dire, l'idea che ci sia questa specie di dannazione per cui la mafia è dappertutto è la ragione della fortuna e della fama di questi personaggi. Se la tengano. D'altra parte l'ha fatto anche Orlando. Orlando com'è che è diventato Orlando? Attaccando Andreotti. Adesso chi te lo filava, Orlando? Ma tu ti rendi conto della gravità di cose che sta dicendo il nostro amico Sgarbi? Ma cioè, non c'è nessuna gravità, c'è la voi ditemi qual è l'atto mafioso di Dell'Utri, delinquente allora, comune che non sei altro. La gravità è nel tuo accusare la gente quando è stata in questa c'è vicenda una sentenza della Cassazione di appello scagionata dai reati che tu stai ripetendo. Ma la sentenza dimmi che cosa ha fatto Dell'Utri, ignorante imbecille. Dimmi qual è l'atto. La sentenza di Cassazione non dice di rifare il processo, appunto, non dice ma che perché non dice... è stato fatto male. Sì, e però allora, non è che lo assolve. Tu sei sicuro di quello che dici, ma e non sei è che lo assolve. Che devono essere rifatte. Che cosa ma non lo ha assolto. Me lo vuoi dire cosa ha fatto, imbecille? Dì ai tuoi ascoltatori qual è il reato, dillo. Vuoi il reato allora, è concorso esterno. Il reato ma cosa vuol dire concorso esterno? Ma è bel reato, è quello che ha smontato Iacoviello. Voglio dire, visto che state parlando, ditemi un fatto, un'azione. Vabbè, quello adesso bisogna andare a prendere la sentenza, bisogna andare a prendere la sentenza di appello e andare a vedere le prove. Ma se dico quando uno uccide qualcuno, non è bisogno di soldi. Parolisi, sai chi è accusato di aver ucciso? Sì, no, vabbè. Allora, ditemi che cosa ha fatto. Siete due che parlate a vanvera, perché siete i figli di Ingroia. Ma che a me lo dici? A me lo dici? A me lo dici? Uno è pelato, è pelato. Ma più è rosso di capelli, rosso di capelli. Vabbè, chiudiamo. Chiudiamo con questo, con il fatto che oggi signor Scilipoti, ha detto delle cose sul mondo omosessuale veramente gravissime, veramente incredibili e gravissime. È gravissimo, guarda, è gravissimo quello che è accaduto. Ma dubito, Scilipoti, bisogna che dica delle cose. Ma guarda che è gravissimo quello che ha detto, è di una gravità inaudita. Facciamo, sì, facciamo sentire un attimo delle cose sull'ano. Ha detto delle cose sull'ano, sul fatto che il rapporto anale tra omosessuali non è accettabile. Sentiamo, una cosa pazzesca. Perché ce l'hai tanto con gli omosessuali? Ma io non ce l'ho con gli omosessuali, io non ce l'ho con nessuno. Dico che il rapporto anale sicuramente è contro natura. Perché? Dico, cioè, un perché? Rapporto anale, guarda, secondo me è contro natura. Due uomini che stanno assieme hanno dei rapporti anali, sicuramente, a mio giudizio, è un rapporto non normale, è un rapporto senza voler offendere nessuno. Un solo cuore. Vittorio, ma insomma, no, cosa ha detto? Vabbè. Io ce lo chiedo a te, com'è il rapporto anale? Voi avete provato, voi due? Ditelo com'è. Ma scusa, che è una cosa normale. Beh è normale tra porto, certo che è normale, scusa. Perché è normale. Voi come è stato? Vi è stato bene? Vi siete trovati bene? No, veramente non l'abbiamo fatto io e lui. Ma l'avete fatto? Allora parlate di una cosa che non conoscete ancora una volta, è come i reati di Dell'Utri. Ma ancora questi reati di Dell'Utri. Ma se voi dite che riposti l'ha preso del culo e sa che non è una cosa normale. Ah, ecco. Non si sa mai, no? Come si fa a saperlo? Ma non so, se per esperienza di parente positiva. Benissimo. Vabbè, ma dai, io difendo, io sono eterosessuale e difendo. Non credo. Ma cosa c'entrano i diritti? Questo ha detto una cosa molto diversa dai diritti. Ha detto semplicemente che il rapporto anale non è naturale. Ma è una cosa forse sbagliata, gli animali ce l'hanno. E quindi non è naturale tra persone che vivono in una società che ha un'etica cristiana, quindi la premessa che mancava era questa. Ecco, ma un società Gabi, ho letto che è un'etica berlina, è assolutamente normale. Una volta era liberale, Vittorio, prima ma di prendere liberalismo, quindi liberalismo prima è una prendere la pensione non c'entrano. Qui è questione di naturale o meno naturale. È probabile. E anche un liberale una volta. Non c'entra niente il liberale. Era liberale. Hanno tutti i diritti del mondo, ma che il nostro Scilipoti dica che non è naturale riguarda un altro concetto. Ma dice anche che è una cosa animalesca, su, dai, è una cosa ridicola. No, ma dice che è una cosa animalesca perché infatti negli animali è praticato, negli uomini meno. Vuoi giustificare quello che non è giustificato? Perché non lo giustifico, non me ne frega niente, dico, ma nell'etica cristiana, è lecito dirlo, dice quello che dice qualunque prete, qualunque vescovo. Ma cosa c'è l'etica cristiana di una società che non è quella in cui voi vi rispecchiate che pensa questa cosa? Ma non capisco perché non può essere convinto uno di una cosa di questo genere. Ma sì, può essere convinto. Se voi siete convinti. Ma chi lo vuole però? Tu l'hai provato? Ma io non l'ho affatto provato, ma io sono molto convinto. Di che cosa? Non che sia innaturale, che sia naturalissimo. Sono convinto che sia naturalissimo, ma che l'etica cristiana che corregge i comportamenti degli uomini rispetto agli animali ci ponga alcune questioni. Esiste un'etica cristiana. e dell'essere, esiste anche un'etica ebraica nel mondo ebraico, vinculata certo. E innaturale, ma lo so, l'ebreone lì presente, ah, che vada a parlare con i suoi rabbini, ah, ecco, dice, vada dai rabbini, ma a sentire cosa dicono del mondo omosessuale. Parenzo, questa cosa non la sapevo. Vada dai rabbini, quel mezzo culattone pervertito, vada dai, quello è lui, vada dai rabbini. Allora, Vittorio, ti abbraccio dopo questa cosa. Senso la vita degli uomini, sì. Gli animali, come noi possiamo essere, sì, hanno tutti gli istinti, sì, e sono leciti, ma le religioni li correggono. Mi pare assolutamente possibile, tutto qua. Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio, non ci volere male, ti abbraccio, ti abbraccio. Addio. Ciao. Siamo qui, la Zanzara. Vabbè, va. Andiamo avanti. Marco da Roma. È stata una serata durissima. Marco da Roma. A te ti hanno detto qualsiasi cosa stasera, anche a me devo dire. Omosessuale, che non è per caso, per carità, non è un'offesa. Non è un insulto. Lo prendi di dietro. Non sei, nulla. Marco da Roma, buonasera. Ebreo. Si è arrabbiato semplicemente perché ho detto che è un baby pensionato. Sei ebreo. Detto, ma io non pensavo, che l'accusa di essere un baby pensionato lo mandasse ai matti così. Non pensavo veramente. Marco, dica, Marco, vada. Salve Cruciani, salve Parenzo, vedo che il popolo che ce l'ha con voi aumenta sempre di più. Ma no, veramente non è così, il popolo che no, ce l'ha con noi. Vittorio, invito nuovamente a cambiare canale. Oddio, cambiate su Rai 1, cambiate su Rai 1, dottor Porci. Ma chi è sto malato di mente? Chi è? Vabbè, se n'è andato, via. Nicole da Milano. Nicole? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Io mi immagino, cioè prima di tutto sì, volevo fare un'osservazione molto grossa, sì, a quell'essere viscido che si chiama Sgarbi. Sgarbi, bene, che vuole dire Sgarbi? Cioè, cosa vuol dire Sgarbi? Perché è uno dei tanti, uno dei pochi, sì, che va a travestiti. Va a travestiti, che ne sa lei che va a travestiti Sgarbi? Ascolta, se te lo dico lo so. L'ho visto e ho delle mie amiche. Uno, in quanto all'anello o ano, buco del culo, qual dir si voglia, sì, sì, sì, no? Qual dir si voglia, ognuno è libero di fare e di usarlo come vuole. Quello ha detto Sgarbi, eh. Ok. Allora? Però non generalizziamo la storia che un uomo vada al trans per farsi fare l'orale o farlo girare. Perché io personalmente, con tutti i clienti che ho, mi pagano a volte solo per parlare dei loro problemi e sono padri di famiglie che hanno bambini. Sta dicendo qualunque cosa? Ma non ho capito niente, Nicole, scusi, di che sta parlando? Della trasmissione che stavate facendo prima dell'omosessuale. E allora? Omosessuale. E allora, che ognuno viva la sua cazzo di sessualità. Come vuole, va bene, come vuole. Siamo portati a ovest e non dobbiamo andare a est, se poi ci sono sbagli di natura. La mia è una scelta di vita. Ma la sua perché lei che cos'è, scusi? Io sono... mancano 2 mesi per andare a farmi operare. Ah, bene. Va bene. Allora, intanto dobbiamo sentire Alfonso Restivo, detto Fonzio Purtusu, candidato sindaco ad Agrigento, personaggio mitologico della lista Paladini per Agrigento. Non c'è stato tempo, ma rimandiamo domani, dove sarà il nostro ospite esclusivo Alfonso Restivo, detto Fonzio Purtusu, caro Parenzo. Vai su internet, va. Anch'io mi sono travestito. Chi è? Chi è? Giuseppe. Chi è? Sono il travestimento di Parenzo. Ah, la solita farsa che fa Parenzo ogni tanto. No, ma è vero. Un attimo solo, Roberta da Milano. La mia identità. Roberta da Milano. Roberta? Sì, pronto? Bada. Volevo dirvi che vi invidio tantissimo, perché mentre lavorate potete dire tutto quello che volete. E soprattutto ogni tanto potete anche andare a cagare quelli che non la pensano come voi. Io non posso. L'abbraccio, le do un bacio. Le do un bacio, ci sentiamo domani alle 18.30. Due cornuti, coglione, incapace, morto di sonno. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. La Zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa! La Zanzara.